Sultano dei Sultani, compra tutto, mare, coste, fettuccine, parmigiano. Si è comprato la mia barca, si è comprato anche la banca, la mia casa, la mia panca. Il sultano dei petroli compra stelle, tutto il cielo, le più belle farfaville. Non risparmia neanche un soldo, compra isole a suo figlio e a me. Resta solo Margherita, l'amore della mia vita. Pezzo di pane da mangiare, ma anche quello che non ho comprato. Sultano dei sultani, fuma fumo, marmellata e baccalà e profumo. Le sue donne sono al palo, tutte ai piedi con il velo, 20 mogli. Il sultano dei petroli ha un impero, 1000 ville per un uomo solo solo. Un pianoforte a 4 mani, una reggia a 5 piani, a me resta solo Margherita, l'amore della mia vita. Un pezzo di pane da mangiare, ma anche quello vogliono comprare. Io sono il sultano dei sultani, poro pompero, prende il mondo per il culo, per di dietro. Quando va allo stadio compra squadra e l'apparato e anche l'arbitro. Il sultano dei petroli ha 3 Ferrari, grattacieli, gratta e vince solo lui. Mentre lui fa il signore, il suo popolo fa la fame e a me resta solo Margherita, l'amore della mia vita. Un pezzo di pane da mangiare, ma anche quello vogliono comprare. Resta solo Margherita, l'amore della mia vita. Un pezzo di pane da mangiare, ma anche quello vogliono comprare. Ce l'ho con l'oro nero né con gli arabi, ma con chi tiene il popolo all'oscuro. Dico quello che mi pare, altresì non è scontato il mio credo, la mia fede. Nei paesi dove regnano non ti lasciano comprare, non ti lasciano pregare e poi vengono a comprare. Questa è un'invasione, non è in vendita il mio cuore e nemmeno questa canzone. Resto solo con Margherita, l'amore della mia vita. Un pezzo di pane da mangiare, non venitemi a cercare. Resto solo con Margherita, l'amore della mia vita. Un pezzo di pane da mangiare, non venitemi a cercare.